Il 9 ottobre di quello stesso anno, Charlotte scrive quanto segue. Queste ultime 3 settimane sono trascorse cupamente nella nostra umile casa. Durante tutta l'estate il fisico di Branwell è andato indebolendosi progressivamente. Tuttavia, né i dottori né lui stesso pensavano che la sua fine dovesse essere così vicina. È stato costretto a letto un solo giorno, 2 giorni prima di morire era sceso al villaggio. È mancato domenica mattina 24 settembre, dopo aver lottato per 20 minuti tra la vita e la morte. Rimase perfettamente lucido fino all'ultimo respiro. Da 2 giorni era venuto in lui il peculiare cambiamento che frequentemente precede la morte. Lo dominava la calma di sentimenti migliori, un ritorno agli affetti naturali, improntò i suoi ultimi momenti. Ora, beh, è nelle mani di Dio Onnipotente, che è anche misericordioso. La profonda convinzione che egli finalmente riposi, che riposi bene dopo la sua breve, colpevole, sofferente, febbrile vita, colma e acquieta la mente. La separazione definitiva, la vista del suo pallido cadavere, mi diedero una pena più viva di quanto avrei immaginato. Finché non giunge l'ultima ora, non sappiamo quanto siamo capaci di perdonare, di avere pietà, di rimpiangere uno dei nostri. Tutti i suoi vizi non furono, non sono ormai nulla, ricordiamo solamente i suoi dolori. A tutta prima papà è stato acutamente provato, ma nell'insieme ha sopportato bene l'evento. Emily e Anne stanno abbastanza bene perché Anne, benché Anne sia cagionevole come sempre ed Emily sia raffreddata e abbia la tosse in questi giorni. È stato mio destino crollare al momento della crisi, proprio quando avrei dovuto chiamare a raccolta le mie forze. Cefalea e nausea si manifestarono per prime domenica mattina. Non potei recuperare l'appetito, poi fui preda di dolori interni. Dimagrii molto improvvisamente, mi fu impossibile inghiottire sia pure un solo boccone. E finalmente si dichiarò una febbre da epatite. Fui costretta a letto per una settimana, ma grazie a Dio sembra che la salute ora stia ritornando. Posso stare seduta tutto il giorno e prendere un po' di cibo. A tutta prima il dottore aveva detto che mi sarei ripresa molto lentamente, ma sembra che io stia migliorando più rapidamente del previsto. Sto davvero assai meglio. Mi è stato detto da qualcuno che fu vicino a Branwell nella sua ultima malattia che questi volle lasciare il letto per morire in piedi. Aveva spesso ripetuto che finché vi è vita vi è forza sufficiente per fare ciò che si decide, e quando giunse il momento dell'agonia insisté per alzarsi. Ho già detto, scrivendo di lui, che quando si produsse la crisi che doveva essergli fatale, le sue tasche furono trovate piene delle vecchie lettere scrittegli dalla donna di cui era innamorato. Lui è morto, lei vive ancora in Mayfair. Le Eumenidi, immagino, cessarono di esistere nel momento stesso in cui echeggiò l'alto lamento: il grande pane è morto. Penso che sarebbe stato meglio risparmiare lui e non quelle spaventose sorelle che pungolano la coscienza e la richiamano in vita. Non parlerò più di costei. Gettiamo nuovamente lo sguardo nella canonica di Haworth. 19 ottobre 1848. Penso di avere ormai superato quasi completamente i postumi della mia recente malattia e di essere tornata nelle mie normali condizioni di salute. A volte le desidererei alquanto migliori, ma dobbiamo accontentarci delle benedizioni che ci vengono concesse, invece di bramare quelle che sono fuori dalla nostra portata. In questi giorni sono preoccupata per mia sorella assai più di quanto lo sia lei stessa. Il raffreddore e la tosse di Emily sono ostinati. Temo che abbia fitte al petto e se si muove con un certo slancio mi accorgo che le manca il fiato. È molto magra e pallida. La sua abituale riservatezza aumenta la mia inquietudine. È inutile farle domande, non si ottiene risposta. È ancora più inutile consigliarle un qualche rimedio, non ne prende mai. Né posso nascondermi la grande delicatezza della costituzione di Anne. La recente triste perdita mi ha resa, penso, più apprensiva del solito. A volte non posso sottrarmi alla depressione che si impossessa di me. Mi sforzo di rimettere ogni cosa nelle mani di Dio, affidandomi alla sua bontà, ma aver fede e rassegnazione, oh, è difficile in certi momenti. Ultimamente il tempo è stato sfavorevolissimo per gli ammalati. Improvvisi cambiamenti di temperatura, eventi freddi e pungenti sono stati frequenti. Oh, se il clima migliorasse, Forse influirebbe favorevolmente sulla salute generale, verrebbero eliminati questi raffreddori debilitanti e queste tossi ostinate. Papà non è rimasto del tutto illeso, ma per il momento è quello di noi tutti che ha sopportato meglio gli inconvenienti. Non pensare a una mia venuta per questo inverno, non potrei e non voglio allontanarmi da casa per nessun motivo al mondo. Miss è in pessime condizioni di salute da alcuni anni. Sono queste le cose che ci fanno sentire e anche sapere che questo mondo non è la nostra dimora definitiva. Non dovremmo avere legami umani troppo stretti, né aggrapparci troppo teneramente agli affetti. Verrà il giorno in cui dovranno lasciarci, o a lasciarli saremo noi. Dio restituisca la salute a tutti quelli che ne hanno bisogno. Continuerò ora riportando le commoventi parole scritte nella presentazione biografica delle sorelle. Scrive Charlotte, ma un grande cambiamento si avvicinò. L'afflizione giunse sotto una forma che a solo immaginarlo dava terrore, al ricordarla dà profondo dolore. Nel pieno ardore della loro giornata terrena, le lavoratrici vennero meno sotto il peso del lavoro. Mia sorella Emily fu la prima a cadere. Mai in vita sua aveva indugiato nell'affrontare quanto le spettava e anche questa volta non indugiò. Affondò rapidamente, si affrettò a lasciarci. Giorno dopo giorno, vedendo con che stoicismo affrontava la sofferenza, la osservavo con meraviglia e amore, piene di angoscia. Non vidi mai un comportamento simile, ma a vero dire non ho mai incontrato una creatura che le fosse paragonabile. Più forte di un uomo, più semplice di una bambina. La sua natura era unica. Era eccezionale in lei la sollecitudine con cui provvedeva agli altri senza la minima indulgenza verso se stessa. Lo spirito era inesorabile verso la carne. Dalle mani tremanti, dalle membra spossate, dagli occhi sempre più appannati, esigeva lo stesso impegno di quando era stata in buona salute. Starle a fianco, assistere a tutto questo e non osare opporvisi fu una tale pena che non si può esprimere a parole. Di fatto Emily non mise più piede fuori di casa dopo la domenica successiva al funerale di Bronwell. Non si lagnò di nulla, non sopportò domande, rifiutò ogni simpatia e qualsiasi aiuto. Molte volte Charlotte e Anne lasciarono cadere in grembo il loro lavoro di cucito o smisero di scrivere, porgendo orecchio al passo esitante, al respiro affannoso, alle pause frequenti con cui la sorella saliva le corte scale. Tuttavia, non notavano quanto seguivano con uno strazio anche più profondo di quello di lei. Non osavano parlare, ancora meno offrire il tenero aiuto di un braccio soccorrevole, di una mano amica. Se ne stavano sedute, immobili, silenziose. 23 novembre 1848. Nell'ultima mia lettera ti dissi che Emily stava male. Non si è ancora rimessa. Sta veramente malissimo. Credo che se tu la vedessi avresti l'impressione che non c'è speranza. Un viso più scavato, devastato, pallido. Non l'ho mai visto. La profonda tosse secca continua, il respiro al minimo sforzo si fa rapido, ansimante. Questi sintomi sono accompagnati da dolori al petto e al fianco. Il polso, l'unica volta che si è lasciato prendere, batteva a 115 pulsazioni al minuto e nonostante queste condizioni rifiuta ostinatamente l'intervento di un dottore. Non vuol giustificare questo suo atteggiamento, non tollera che vi si accenni. Questa situazione è estremamente penosa e lo è stata per le ultime settimane, solo Dio sa come andrà a finire. Più di una volta mi sono sentita costretta a considerare la terribile eventualità di perderla. Oh, è possibile, anzi probabile. Ma la natura rifugge da un simile pensiero. Penso che nel mondo intero Emily sia la creatura più vicina al mio cuore. Quando un medico fu mandato a chiamare e si presentò, Emily rifiutò di riceverlo. Le sorelle dovettero limitarsi a esporgli i sintomi che avevano notato in lei. Quando furono portate le medicine mandate da lui, ella rifiutò di prenderle, negando di essere ammalata. 20 dicembre 1848. Quasi non so cosa dirti su quanto ormai mi interessa più di ogni altra cosa al mondo, poiché in tutta verità non so cosa pensarne. La speranza e il timore si alternano un giorno dopo l'altro. I dolori al petto e al fianco sono meno acuti, la tosse, il respiro affannoso, l'estrema magrezza continuano. ho sopportato tali torture dell'incertezza che alla fine non ho potuto resistere oltre, e siccome la sua ripugnanza a vedere un medico continuava immutata, visto che dichiara che nessun medico avvelenatore la avvicinerà, ho scritto a sua insaputa un eminente professore di Londra, dandogli minuziosi particolari sul caso e su tutti i sintomi, come meglio ho saputo descriverli, e chiedendo il suo parere. Aspetto di ricevere la risposta da qui a un giorno o due. Sono contenta di poter dire che al momento la mia salute è passabile. È una fortuna che sia così, poiché Anne, con la miglior volontà possibile di rendersi utile, è in realtà troppo delicata per fare o sopportare molto. Anche lei, in questi giorni, ha frequenti dolori al fianco. Papà sta veramente bene, benché le condizioni di Emily lo angustino molto. Le ex alunne di Anne Bronte sono state qui una settimana fa. Sono ragazze attraenti ed elegantissime. Hanno dato l'impressione di essere veramente felici di rivedere Anne. Quando sono entrata nella stanza, le stavano abbracciate come delle bambine. Lei, da parte sua, tranquillissima, ma passiva. È stata un'idea cervellotica di Jay e di H, quella di venire qui. Credo che probabilmente si siano offese, per che motivo non so. E se questo fosse il caso, il risentimento dovrebbe dipendere da qualcosa di assolutamente immaginario. E poiché ho altre cose a cui pensare, mi fermo ben poco su questo argomento. Se solamente Emily stesse bene, non mi importerebbe assolutamente nulla di essere trascurata, incompresa, ingiuriata da chi che sia. Solo vorrei che non fosse da te. Il formaggio è arrivato, sano e salvo. Emily mi raccomanda di ringraziartene, sembra buonissimo. Vorrei che stesse bene abbastanza da poterlo mangiare. Ma Emily andava peggiorando rapidamente. Ricordo il brivido di Miss Bronte quando rammentò, narrandomela, la stretta al cuore provata, quando, dopo aver cercato nei crepacci protetti dalle intemperie, aveva trovato un ramoscello di erica, appena uno e tutto intristito, e lo aveva portato a Emily, e si era resa conto che il fiore tanto amato non veniva riconosciuto dai suoi occhi appannati e indifferenti. Ma fino alla fine Emily aderì tenacemente alle sue abitudini di indipendenza. Non sopportava di essere aiutata. Qualsiasi tentativo di farlo risvegliava in lei il solito spirito intransigente. Un martedì di dicembre si alzò e si vestì come di consueto, interrompendosi continuamente durante l'operazione, ma facendo ogni cosa da sola, e tentò di prendere il suo lavoro di cucito. Le domestiche non la persero di vista. Avevano capito cosa preannunciava: il respiro rauco, sempre più affannoso, e gli occhi che si facevano vitrei, ma lei tirava avanti a cucire, e Charlotte e Anne, benché piene di indicibile sgomento, nutrivano ancora una debolissima speranza. Quella stessa mattina Charlotte scrisse quanto segue, probabilmente seduta accanto alla sorella moribonda. «Ti avrei senz'altro scritto prima se avessi avuto anche una sola parola di speranza da vergare, ma non l'ho. Si va indebolendo di giorno in giorno. L'opinione del professore è stata espressa troppo oscuramente per avere una qualche utilità. Ha mandato alcune medicine che lei ha rifiutato di prendere. Non ho mai conosciuto ore buie come queste. Prego, chiedendo l'aiuto di Dio per tutti noi. Fino a questo momento ce l'ha concesso. La mattina volgeva al meriggio. Emily peggiorava. Poteva solo sussurrare con voce rotta. Quando era troppo tardi, disse a Charlotte: «Se vuoi far venire un dottore, ora lo riceverò». Verso le 2 morì. 2 dicembre 1848. Emily non soffre più di dolore o debolezza ormai. Non soffrirà mai più in questo mondo. È morta dopo una dura, breve lotta. È morta martedì, proprio il giorno in cui ti ho scritto. Pensavo che fosse possibile che rimanesse con noi per settimane ancora, e poche ore dopo era nell'eternità. Sì, non c'è più Emily nel tempo, sulla terra ormai. Ieri abbiamo deposto quietamente la sua povera spoglia terrena sotto il pavimento della chiesa. Siamo molto calme, perché dovrebbe essere altrimenti? L'angoscia di vederla soffrire è passata. Lo spettacolo delle pene della morte è finito. Il giorno del funerale è alle nostre spalle. Sentiamo che è in pace. Non è più necessario tremare per la dura gelata e per il vento pungente. Emily non li sente. È morta in un periodo pieno di promesse. L'abbiamo vista strappata a noi nel fiore dell'età, ma è stata la volontà di Dio e il luogo dove è andata è migliore di quello che ha lasciato. Dio mi ha sostenuta tanto da meravigliarmi attraverso un'agonia quale non avevo concepita possibile. Adesso guardo Anna e vorrei vederla in buone condizioni, forte, ma non lo è, e così pure papà. Puoi ora venire da noi per alcuni giorni? Non ti chiederò di fermarti a lungo. Scrivimi e fammi sapere se la settimana prossima puoi venire, con che treno. Farei del mio meglio per mandarti a prendere a Keighley con un calessino. Confido che ci troverai tranquille. Fai in modo di venire. Non ho mai sentito tanto il bisogno della presenza consolatrice di un'amica. Naturalmente a te questa visita non procurerà alcun piacere all'infuori di quello che il tuo cuore gentile ti farà approvare nel fare del bene agli altri. Mentre il vecchio padre Orbato e le due figlie sopravvissute seguivano la bara fino alla tomba, furono raggiunte da Keeper, il feroce fedele cane di Emily. Entrò a fianco degli accompagnatori in chiesa e vi rimase quietamente per tutto il tempo del servizio funebre. Tornato a casa, andò ad accucciarsi davanti alla porta della camera della padrona e per molti giorni ululò lugubremente. Anne Bronte da quel momento languì e andò declinando rapidamente. Così ebbe fine l'anno 1848. Capitolo 3. Nella Quarterly Review del dicembre 1848 era uscito un articolo che trattava di Vanity Fair e di Jane Eyre. Alcune settimane più tardi Miss Bronte venne a conoscenza del fatto e scrisse ai suoi editori chiedendo come mai non glielo avessero mandato, e immaginandolo sfavorevole dichiarò che li lasciava liberi di agire come meglio credevano quando si trattava di critiche buone, mentre tutte quelle contrarie dovevano esserle comunicate. La Quarterly Review le fu debitamente inviata. Non mi consta che Miss Bronte abbia dato gran peso a quell'articolo, dal quale tuttavia stralciò, per metterle in bocca in Shirley, una donna dura e volgare, alcune battute talmente in carattere col personaggio che pochi lettori devono averle individuate come citazioni. Miss Bronte lesse quell'articolo in un momento propizio, resa insensibile a qualsiasi meschino fastidio dalla grande severità della morte, altrimenti avrebbe risentito più acerbamente di quanto lo meritassero le critiche, che pur ostentando un tono severo mancavano di logica e, mentre intendevano essere acute, erano semplicemente irriguardose. Ma la mancanza di riguardo merita un nome più severo quando colpisce uno scrittore partendo da una penna anonima. La chiamiamo vile insolenza. Ciascuno ha il diritto di giungere alle proprie conclusioni circa i meriti o i demeriti di un libro. Non protesto per il pregiudizio pronunciato dal critico anonimo su Jane Eyre. Le opinioni variano allora come variano oggi. Mentre scrivo queste righe, ricevo dall'America la lettera di un ecclesiastico che dice: "Abbiamo tutti nel nostro Sancta Sanctorum un posto speciale che intensamente godiamo di onorare. Vi riponiamo i romanzi a cui riconosciamo il merito di aver esercitato una buona influenza sul carattere, sul nostro carattere. Io vi ho messo primo fra tutti Jane Eyre." Non nego il diritto all'espressione di un giudizio diametralmente opposto. Perciò, visto che non mi preoccupo di questo, metto da parte la critica circa i meriti del lavoro. Ma quando, ignorando la dichiarazione cavalleresca del nobile Southey, laddove afferma: "Nel recensire lavori anonimi, anche se ne riconoscevo gli autori, non ne ho mai fatto il nome, dando per scontato che avevano buoni motivi per evitare la pubblicità", il recensore del Quarterly si abbandona a congetture pettegole sulla vera identità di Currer Bell e pretende di analizzarne l'indole in base al libro da lui scritto. Protesto con tutta l'anima contro una tale mancanza di carità cristiana. Nemmeno il desiderio di scrivere un articolo brillante di cui si parlerà a Londra con ammirazione, quando per opera sua la debole maschera dell'anonimato sarà fatta cadere, nemmeno questo può scusare la crudeltà del giudizio. Chi è mai colui che si permette di scrivere di una sconosciuta? Deve essere una donna che per qualche ragione ha da lungo tempo tradito la frequentazione delle persone appartenenti al suo sesso. Questo critico conduce forse da lunghi anni una vita selvatica e isolata, frequentando poche semplici persone dalla parlata elementare che non conoscono la pratica di quegli artifici che aiutano la società ingentilita a scremare dal discorso la menzione del vizio. Ha combattuto questo critico penose battaglie nel tentativo di trovare scuse alle gravi mancanze di un unico fratello e nel contatto quotidiano con un povero essere depravato è stato costretto a convivere con vizi che l'animo suo aborrisce. Ha questo critico provato dei dolori che in rapida successione hanno spazzato via dal focolare domestico ogni segno di vita e di amore, trovato la forza di dire al Signore sia fatta la sua volontà, talvolta lottando invano in attesa del ritorno della luce. Ah, se lo sprezzante critico fosse passato attraverso tutte queste prove illeso, purificato, libero da ogni macchia come Charlotte, conservando una forza d'animo che durante tutte quelle ore d'agonia non ha mai gridato: «Mio Dio, perché mi hai abbandonato?», anche in questo caso si comporti come il pubblicano che prega umilmente e non giudichi come l'orgoglioso fariseo. 10 gennaio 1849. Anna è stata proprio benino ieri e ha poi passato una notte abbastanza tranquilla, benché non abbia dormito molto. Mr. Wilhouse ha ordinato di applicarle nuovamente il vescicante. Lo ha sopportato senza provare nausea. Gliel'ho appena applicato e si è alzata ed è venuta da basso. Ha il viso piuttosto pallido e malandato. Ha preso una dose di olio di fegato di merluzzo. Ah, l'odore e il sapore dell'olio con cui si lubrificano i treni. Mi sforzo di sperare, ma la giornata è ventosa, il cielo è nuvoloso, minaccia tempesta. A intervalli mi sento molto depressa. Poi alzo lo sguardo laddove tu mi consigli di guardare, oltre le tempeste e i dolori terreni. Sembra che vi trovi forza se non consolazione. È inutile far previsioni. Vivo di ora in ora. Di notte mi sveglio e agogno la mattina e poi mi si torce il cuore. Papà continua allo stesso modo. Era molto debole quando è sceso per fare colazione. Oh, cara, cara, la tua amicizia mi è di conforto. Ringrazio il cielo di averla. Vedo poca luce nelle tenebre del momento presente, ma in mezzo ad esse la costanza di un cuore gentile legato a me è uno dei raggi rincuoranti e sereni. 15 gennaio 1849. Non posso dire che Anna stia veramente peggio, ma nemmeno posso dire che stia meglio. Le sue condizioni variano spesso nel corso di una stessa giornata, tuttavia nell'insieme i giorni si susseguono su per giù simili l'uno all'altro. Generalmente la mattinata è il momento migliore, il pomeriggio e la sera sono più febbrili. La tosse la tormenta, soprattutto di notte, ma raramente è violenta. Il dolore al braccio la disturba ancora. Prende regolarmente l'olio di fegato di merluzzo e il carbonato di ferro. Dice che sono nauseanti tutte e due, ma l'olio in modo speciale. E l'appetito è veramente scarso. Non temere che io mi rilassi nella cura che ne prendo. È troppo preziosa perché non le dia tutto l'amore materno di cui sono capace. Papà, sono lieta di dirlo, è stato meglio in questi 2 ultimi giorni. Per quanto vuoi sapere di me, posso dire che se continuerò così andrò avanti veramente bene, però non mi sono ancora liberata dei dolori al petto e alla schiena. Ricompaiono stranamente con ogni cambiamento del tempo e a volte sono accompagnati da un leggero mal di gola e da raucedine che combatto costantemente con impiastri di pece e con decotto di crusca. Giudicherei cosa sciocca e colpevole il non prender cura della mia salute. In questo momento non sarebbe opportuno che mi ammalassi. Evito di guardare al futuro o al passato. Tento di tenere gli occhi rivolti verso l'alto. Questo non è il momento di rimpiangere, di versare lacrime, né di temere. Quello che devo e che dovrò fare mi è chiaramente davanti agli occhi. Quello che voglio e chiedo in preghiere di avere la forza di non venirvi meno. I giorni scorrono via lentamente, con cupa monotonia, le notti sono una prova, improvvisi risvegli da un sonno inquieto, una viva coscienza che una giace nella tomba e l'altra non è al mio fianco ma nel suo letto di inferma. Tuttavia, Dio è sopra di noi. 22 gennaio 1849. Durante i giorni tiepidi della scorsa settimana, Anna ha dato l'impressione di stare veramente un po' meglio, ma oggi è di nuovo molto pallida e illanguidita. Continua a prendere l'olio di fegato di merluzzo, ma non si abitua al suo sapore nauseante. Ti è assai obbligata per le solette da scarpe che le hai mandato e che trova estremamente confortevoli. Ti trasmetto la sua richiesta di procurarle un respiratore simile a quello che aveva Mrs. Non fare obiezione a pagarlo un prezzo più alto se fosse necessario. Se non è troppo disturbo, ti sarei grata di procurare anche a me un paio di solette. Puoi mandarle insieme al respiratore quando spedirai la scatola. Devi segnare il prezzo di ogni cosa e noi pagheremo con un vaglia postale. Cime tempestose era per te. Io non ho mandato né lettera né pacco. Avevo soltanto desolanti notizie da scrivere, perciò ho preferito che le avesse da altri. Nemmeno ho scritto a. Non mi sento di scrivere a meno che non sia assolutamente necessario. 11 febbraio 1849. Abbiamo ricevuto oggi il pacco e il suo contenuto, il tutto in perfetto ordine. Gli asciugapenna sono davvero graziosi e te ne siamo obbligatissime. Spero che il respiratore gioverà ad Anne, nel caso che migliori abbastanza da poter uscire nuovamente. Per ora continua nelle medesime condizioni, almeno spero che non siano peggiorate, benché la veda dimagrita assai. Temo che immaginarla in via di miglioramento equivarrebbe a una delusione. Non so che effetto potrà avere su di lei l'avvicinarsi della primavera. Forse il ritorno di un clima veramente caldo potrà farle bene, stimolando beneficamente la natura. Oh, tremo al pensiero di una recrudescenza del vento e del gelo. Volesse il cielo che marzo fosse già passato. Ha la mente generalmente serena e le sue sofferenze fino ad ora non hanno nulla a che vedere con quelle di Emily. Il pensiero di quanto si prepara mi si fa più familiare, ma è un triste, squallido ospite. 16 marzo 1849. La settimana scorsa ci ha provate duramente, non per il freddo, ma a motivo dei continui sbalzi di temperatura che hanno influito sfavorevolmente su Anne. Confido che non stia seriamente peggio, ma la tosse a volte si fa molto secca e penosa. Le forze, invece di migliorare, a tratti diminuiscono. Vorrei che quanto rimane del mese di marzo fosse passato. Hai ragione di suppormi alquanto depressa. In certi momenti lo sono totalmente. È stato quasi più facile tenersi su quando la prova era all'acme di quanto lo sia ora. La sofferenza per la perdita di Emily non diminuisce col passare del tempo, anzi. In certi momenti si fa sentire più acutamente, porta con sé un inesprimibile dolore e il futuro è cupo. Tuttavia ne sono ben conscia. Non serve a nulla lasciarsi abbattere e lamentarsi. Lotto per evitare queste due cose. Spero e confido che le forze mi saranno concesse in proporzione del peso da portare. Ma la sofferenza che deriva dalla situazione in cui mi trovo non è di quelle che diminuiscono grazie all'abitudine. La solitudine e l'isolamento sono opprimenti, eppure non desidero che un'amica venga a tenermi compagnia per condividere la tristezza di questa casa. Non potrei ricavarne beneficio alcuno, nemmeno da te. Mi metterebbe in una intollerabile tensione nervosa. La sofferenza di Anne continua a non essere acuta. È proprio della mia indole, se lasciata a me stessa, di tirare avanti e lottare con una certa perseveranza. E credo che Dio mi aiuterà. Anne era stata delicata fin dalla nascita. Questo fatto forse li rese meno pronti di quanto altrimenti lo sarebbero stati nel valutare la situazione e capire la vera natura di quei fatali primi sintomi. Sembra però che abbiano perso un tempo relativamente breve prima di chiamare il primo medico che fu loro possibile avere. Venne esaminata con lo stetoscopio e la terribile sentenza fu pronunciata. I polmoni erano ammalati, la tubercolosi polmonare aveva già fatto notevoli progressi, venne prescritto un trattamento approvato anche dal dottor Forbes. Per breve tempo sperarono che il progresso della malattia fosse bloccato. Charlotte, anche lei, sofferente di una grave indisposizione che ne provava duramente lo spirito, fu un'infermiera instancabile per quella sua ultima giovane sorella. La confortava il comportamento di Anne, che era la più mite, la più paziente delle ammalate. Tuttavia, vi furono da sopportare ore, giorni, settimane di inesprimibile angoscia, sotto il peso delle quali era unicamente possibile pregare. Charlotte pregava ardentemente. Il 24 di marzo scrive: il declino di Anna è graduale e va soggetto a fluttuazioni, ma non se ne può dubitare. È rassegnata. Ha un cuore veramente cristiano. Possa Dio sostenerla e noi tutti, attraverso la prova di una lenta, lunga infermità, aiutarla nell'ultima ora, quando la separazione dell'anima dal corpo deve essere affrontata. Abbiamo visto Emily strappata da noi mentre i nostri cuori si aggrappavano a lei con intenso amore. Era stata appena sepolta che Anna incominciò a declinare. Sarebbe troppo se la ragione dovesse affrontare simili cose senza l'aiuto della religione. Ho motivo di essere estremamente grata per la forza che è stata fin qui concessa sia a mio padre che a me. Dio, penso, è specialmente misericordioso verso la tarda età, in quanto a me prove che viste da lontano mi sarebbero parse intollerabili, quando le ho dovute affrontare le ho sopportate senza esserne prostrata. Ma devo ammettere che in quest'ultimo periodo, dalla morte di Emily in poi, ho conosciuto momenti di solitaria, inerte, profonda afflizione, più duri da sopportare che non quelli che avevano seguito immediatamente la sua perdita. La crisi che segue la perdita di una persona diletta è dominata da uno strazio acuto che spinge ad agire, il desolato sentimento che segue a volte paralizza. Ho imparato che non troviamo sollievo nella nostra forza personale. Dobbiamo cercarlo nel Divino Onnipotente. Sentirsi forti è buono, ma questa nostra forza deve esserci sottratta ogni tanto per farci capire quanto deboli siamo.